Sì, buongiorno. Ciao Gianluigi, ciao. Non mi ricordo come ti chiami. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La gente si muove, la musica cresce, ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, ancora un altro muro viene giù. Che i muratori costruiscono sempre dei muri, non è detto. Ciao Giovanni Capuano. Fanno anche palazzine. Fanno anche palazzine, certe volte al contrario. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Oggi il telefono fisso, eh? Ah, che meraviglia. Dopo il grande successo della intervento di ieri, in cui non si capiva nulla, era quello sottotitolato, esatto. Oggi, come mi senti? Perfettamente. Perfetto. Dolby Surround. Senti, va. C'è ancora Dolby Surround? Sì. Che domande fa? C'è. Gianmarco Carnati, regia, Giorgio De Luca mi fanno sì con la testa. C'è, esiste. Perché questa canzone di Jovanotti? Perché il muratore che costruisce i muri? La nuova metafora, no? E dopo i treni e le melanzane a Catania sono spuntati i muratori. Delli Carri che dice: mi chiedeva il capo cantiere, essendo un solo treno, quello delle 3 e quello delle 5, non si sa che cosa assicuri. Risponde Pietro Liruzzi, agente procuratore, agente FIFA: no, no, gliel'ha detto, ma non sa se parte, però conosciamo che è un muratore di questi rumeni, albanesi, sono mezzi strani, capito? E lui ha detto: sì, va bene, ok, se io vengo al cantiere faccio il mio lavoro. Ora, sapendo il biondo che ci ha paura, è stato corretto. Quello è un muratore che fa lo stronzo, ti può dire sì o no, può fare mezze misurazioni, mezze cose, poi si ferma a bere la birra, poi riparte a lavorare. È uno non tanto affidabile perché non è convinto di fare sto lavoro. E poi ancora Delli Carri: è un muratore solo, come fa a garantire quelle lunghezze lì, i 2 metri in più? Hai capito? Poi salta fuori. Viene nostalgia dei muratori bergamaschi di una volta. No, però guarda, non facesse così schifo, non facesse così vomitare questa storia, ci sarebbe veramente da divertirsi. Non mi ricordo chi diceva ieri, Pier, che sembrano usciti dalla commedia di Totò e Peppino, Sì, sì, insomma, farebbe ridere, nel senso che è tipo il babbertino di Rum, no? Cioè, sì. Un segnale convenuto, questo linguaggio così anche divertente, se non ci fosse una realtà, molto probabilmente, con tutte le presunzioni di innocenza, lo ricordiamo mille volte, ma insomma molto probabilmente invece a livello di reato. Ma insomma, io ho letto Capuano, adesso poi magari parliamo anche di cose più divertenti. Sì. Ho letto Capuano su panorama.it e credo che insomma la strada sia soltanto una, ed è quella che in qualche modo a Bote aveva già proposto a febbraio, che poi è stata rilanciata in queste ore nel colloquio con Cantone, che è il capo dell'autorità preposta, insomma, è quella di dare delle pene realmente pesanti dal punto di vista pecuniario, quindi dare una responsabilità civile a persone che fanno illeciti o di scommesse o per comprarsi le partite, diciamo, per il bene di una squadra. Se diventano responsabili in solido dal punto di vista economico, del danno economico che portano, a quel punto cambia tutto. Se si fa questa cosa, svoltiamo. Se non si fa questa cosa, secondo me staremo periodicamente, a distanza di anni, a farci delle domande, ma insomma bisogna cambiare mentalità, e purtroppo non la cambi soltanto con le buone intenzioni, la cambi con questo tipo di provvedimento. No, non la cambi con le buone intenzioni ed evidentemente non la cambi nemmeno con i sistemi che hai attuato, perché è dal 2011 che noi viviamo tutte le estati così. Tra l'altro vi do una notizia, mi hanno raccontato che ci sono altre procure che stanno lavorando su altre storie simili, quindi non c'è soltanto Catanzaro, Cremona 2 e Catania che abbiamo scoperto in questi giorni, ma probabilmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, adesso poi si vedrà, ma c'è altro in giro e quindi noi ci troveremo ancora a raccontare queste storie, poi vedremo, insomma. Però aggredire i patrimoni come si è fatto all'inizio per i mafiosi e poi per tanti altri reati, certo, quello che scambia finisce per sistema, essere no? l'ultimo baluardo per provare sicuramente a punire e poi forse anche in qualche modo a prevenire, perché qualcuno ci penserà su due volte prima di mettersi in queste cose. Allora vi faccio sentire prima del traffico un'altra chicca. Parlano sempre di Luzio Dell'Icarri, questa volta vi faccio sentire il sonoro. Poi cambiamo argomento, parliamo del Milan, parliamo dell'Inter, parliamo di questo mercato multimilionario, perché al Milan arriva a primo colpo il mercato Bertolacci, 20 zucche, 20 milioni, mica poco, sentiamo prima questa di Luzio Dell'Icarri. E quello è il treno che parte, il re spaccato, quello ore 15 parte. Ho capito. Ma è l'unico treno che c'è? Ma lui mi ha fatto capire, fammi vedere, fammi cosare, ma quello è un treno che parte da lì. Sto massacrando il cervello. hai messo mano, hai creato un mostro. Che non lo so, tu mi vedi i mostri che stanno qua. Quello stamattina mi ha aspettato per dirmi tutto e poi se ne è andato a Milano. Vuole fare la Champion, vuole fare. Perdona quella ragazza che ha detto come ti chiami, perdonalo. Carlo Gente è un grande, vedi? Carlo Gente. È così facile. Ha detto come ti chiami, scandaloso. Tutti convocati. Tutti convocati. Ancora Bertolacci che sta dominando in mezzo al campo. Bertolacci a testa alta, vuole il dribbling, lo trova Bertolacci. Bertolacci! Un gol da fenomeno di Bertolacci. Fa tutto da solo e fa tutto benissimo. Mi piace parlare di giocatori che non sono del Milan. Se Milan dovesse prendere Bertolacci, sicuramente un grande giocatore, un ragazzo giovane che ha fatto molto bene, sarei contento di averlo con noi, però questo io non lo posso sapere e non ho nessuna notizia. Per le caratteristiche, per quello che ha fatto, per quello che può dare, è un giocatore da Milan, ma purtroppo io ancora non so nulla, perciò non vi lo posso dire niente. Magari fra qualche giorno, quando sarà ufficiale, se sarà ufficiale, vi lo posso parlare. Dimenticare e non pensarci più, perché stavolta non è amore, nella mia vita non sei tu. Ricominciare con quel coraggio che c'è in me, andando a cena con gli amici, guardando in giro cosa c'è. Non ho avuto mai paura di confrontarmi e potermi confrontare con Berlusconi io ritengo un privilegio, perché uno che da più di 30 anni a guida del Milan è presidente più vincente del mondo, e chi più facile, chi più meglio di lui mi può spiegare cosa è Milan. Io prendo la squadra, io sono responsabile per la mia squadra, perciò io faccio la squadra, è tutto. Allora, Bertolacci in arrivo anche. Arriva lunedì a Milano, Bertolacci. 20 milioni, tanta roba. Allora, Pierluigi Pardo al telefono, fisso, si sente benissimo. Sì, sì. Cristian Brocchi, buongiorno e grazie. Eccolo. Ciao, Cristian. Ciao, buongiorno. Allenatore della Primavera del Milan. Com'è andata la stagione? Mi fa un rapido riassunto? Bene, tutto bene. Siamo usciti alle Final Eight, rigori col Torino, che poi ha vinto il campionato. E quindi diciamo che sono contento per quello che hanno fatto i ragazzi, dai. Quindi sono cresciuti molto, hanno onorato la maglia che hanno indossato, quindi meglio di così non si poteva chiedere. Vedi qualcuno di già trasferibile in prima squadra? Beh, ci sono dei ragazzi sicuramente interessanti. Astalli, Calabria, su tutti, insomma, hanno e di Molfetta hanno qualcosa in più degli altri, anche perché sono avanti nel loro percorso e quindi potrebbero dire la loro. Pier, e invece quella mentalità che, insomma, l'anno scorso quello che diceva chi seguiva il Milan a tutti i livelli e che magari la prima squadra avesse avuto la stessa mentalità. Non parlo poi dei risultati, parlo proprio dell'atteggiamento, della filosofia di gioco che aveva la primavera. Quella mentalità che poi fa parte del DNA del Milan, pensi che la rivedremo quest'anno con Sinisa Mihajlovic? Ma penso e spero di sì, anche perché come ci ha detto te, il Milan per tutta la sua storia, quando è andato in Europa e nel mondo a vincere, ha sempre avuto una mentalità vincente, la voglia di avere la padronanza del campo e il comando del gioco, e quindi questo deve far parte dell'essere un giocatore del Milan, e la speranza è quella che veramente il Milan possa tornare a quei livelli e possa far tornare a divertire i tifosi che ne hanno anche la giusta voglia. Sì, ci vogliono i giocatori però, Cristian. Adesso arriverà Bertolacci ed è il primo tassello in un mercato che è partito con grande sofferenza. Sì, sono d'accordo, però ho già detto tante volte che secondo me anche la rosa del Milan di quest'anno non è una rosa da buttare via. Sicuramente ha dentro degli ottimi giocatori e altre squadre che magari hanno fatto meglio, hanno raggiunto posizioni migliori, non avevano una rosa superiore, quindi sono tante le componenti che poi fanno andare bene o male un'annata. Io penso che quest'anno sicuramente il Milan farà meglio, ma soprattutto l'obiettivo numero uno è quello di tornare a giocare un bel calcio. Che giocatore è Bertolacci? Perché ha giocato avanzato quasi da trequartista, ma credo di capire che il Milan l'abbia preso per un altro ruolo, Cristian. Sì, ma sai, nel calcio moderno i giocatori multiruolo sono quelli che aiutano di più una squadra. Vedi anche Buonaventura quest'anno, che poteva giocare attaccante esterno, trequartista, mezzala, quindi hanno la possibilità di garantire una scelta maggiore all'allenatore e hanno la possibilità di interpretare a seconda dei momenti della partita un ruolo o un altro, e quindi ben vengano. Un attimo. Breaking news. Buongiorno a tutti da Daniele Becchiesi, 14:21. Aumenta di minuto in minuto il bilancio di questo attentato terroristico nel Golfo di Hammamet, esattamente in due resort di lusso a Susse. È un terrore, un vero e proprio terrore sulla spiaggia delle vacanze in Tunisia, dove uomini armati hanno attaccato questi due resort. Testimoni sentiti da fonti locali riferiscono di scambi di spari sulla spiaggia, scene di panico, turisti chiusi nelle camere dell'hotel Imperial Marhaba. Il numero è ancora incerto, si parla già di 19 persone uccise. Pochi minuti fa avevamo dato invece la notizia che erano 7 i morti, quindi peggiora sempre di più. Di certo uno degli attentatori è stato colpito a morte, ma anche alcuni turisti sono rimasti vittime di questa sparatoria. Uno dei due attentatori si è dato alla fuga. Intanto è di pochi minuti fa la notizia e la conferma che è stato arrestato il secondo sospetto per l'altro attentato, seguiamo da questa mattina, nella città di vicino appunto a Lione, nel distretto dell'Isère. È stato arrestato pochi minuti fa il secondo sospetto, uno era stato arrestato invece un paio d'ore fa. Grazie a questi aggiornamenti da Daniele Biacchessi. Adesso ritraghettiamo verso il calcio con Cristian Brocchi, con Giovanni Capuano. Pierluigi Pardo, hai sentito cosa stavo dicendo? A parte che adesso, ma oggettivamente è difficile. A me sembra che l'acquisto di Bertolacci in qualche modo è un giocatore ottimo. Lo conosciamo, l'abbiamo visto in grandissima crescita, non credo ci siano grandi discussioni anche come prospettiva. Mi sembra che la valutazione sia un po' alta e in qualche modo credo che si leghi al famoso sabato nero, cioè il Milan in questo momento ha i soldi del resto ne ha messi 75 sul piatto per Condobia e Jackson Martinez, ha incassato due sconfitte pesanti sul mercato da quel punto di vista, e quindi è un po' presa dalla foga, dalla frenesia, che chiaramente è un errore, però insomma capisco pure che si debba cominciare a dare una forma a questa squadra. Questo secondo me c'è dietro a questa valutazione. Poi il giocatore è buono, buonissimo, insomma. Sì, ma comunque vedo prezzi molto alti, perché Saponara, che peraltro l'anno scorso era al Milan, adesso viaggia su quotazioni 15-16 milioni, quindi infatti quando sono tornati i soldi improvvisamente e nessuno ci ha avvertito. No, le prime valutazioni sono anche sono altissime. Guarda, al momento la Serie A è il campionato che ha speso di più, e non siamo ancora partiti, per cui può essere che poi, anzi sicuramente alla fine, ad esempio la Premier League ci supererà. Però evidentemente il vento è cambiato, ed è cambiato io credo per una ragione semplice: al di là della Juve che ha le potenzialità e quest'anno sta ripartendo, le altre devono arrivare in Champions e quindi investono su progetti che devono dare immediatamente quel risultato lì, perché altrimenti è un problema per tutti, sì, per l'Inter, per il Milan, per tanti. È così, Christian? Beh sì, la Champions League è quella che fa andare avanti soprattutto le grandi società. È normale che quando società come il Milan, come l'Inter, rimangono fuori per più anni da una competizione così importante che a livello economico ti garantisce numeri che portano avanti una squadra del genere, allora è normale che poi dopo vengano fuori problemi. Quindi in questo momento qua la volontà loro è quella di ritornare in Europa, possibilmente in Champions, perché è da lì che vengono i maggiori introiti. Tanti soldi comunque quelli spesi fin qui, soprattutto dall'Inter, che adesso comincia a sono squadra. Tanti soldi, ma sono frutto magari di soldi spesi poco o male magari nelle passate stagioni, e quindi ti ritrovi poi a doverne spendere tanti per poter mettere a posto diverse situazioni, e come abbiamo appena detto non possono il Milan e l'Inter star fuori troppi anni dalla Champions, perché sennò vanno incontro a dei problemi di gestione seri. Ti piace l'Inter? Come, scusa? Ti piace l'Inter? L'Inter che sta nascendo? Ma insomma, sta facendo una squadra almeno tosta sicuramente, perché ha preso dei giocatori comunque importanti, i nomi sono giusti, sicuramente saranno un valore aggiunto. A me soprattutto quello che mi dà più fiducia è Mancini, perché già con le difficoltà tecniche della stagione appena conclusa aveva dato un'identità di gioco alla squadra, e logicamente penso che con gli acquisti sicuramente mirati e voluti da lui riuscirà ancora di più a far giocare meglio la squadra. Questa cosa di prendere dei giganti, perché con Doubia, Imbula se arriva, Murillo, Miranda, sono tutti giocatori fisicamente molto grossi, importanti, va un po' in controtendenza con quello che avevamo visto negli ultimi mesi? Si era celebrato il ritorno di un po' di fantasia, di un gioco un po' più tecnico, di un calcio un po' più veloce? Beh, bisognerà poi vedere gli altri interpreti che saranno affiancati a loro, nel senso che comunque alla fine in una squadra ci vuole un po' di tutto, un mix giusto che possa garantire qualità e quantità, perché sappiamo che la fisicità comunque conta nel calcio moderno. Avere forza, avere centimetri sicuramente aiuta, però a questo va abbinata sicuramente una grande qualità se vuoi arrivare a livelli importanti. Lascio l'ultima domanda per Luigi Pardo, per Christian Brocchi. Che fai? Sono in una Formentera, in vacanza. Non va. Dove sei sicuramente sul lato era due anni di Ietes, che non facevo vacanze, no? Dai, concedimela. sei sul lato di Ietes o di Ietes, mi sa. No, sono qui a Espujol, tranquillo, in un ristorantino. Adesso sto pranzando con i miei figli. Sono perfetto in questo momento. Buona vacanza allora, Cri. No, però scusa, la domanda è che fai quest'anno? Che fai quest'anno? Non ho sentito, scusate. Che farai? Che progetti ci sono per la stagione? No, io rimarrò ancora in primavera e a completare quello che è un po' il mio percorso iniziale, e la speranza è quella, logicamente, di migliorare ancora di più quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ma di riuscire veramente a far andare qualche giocatore del settore giovanile in prima squadra, perché mi piacerebbe veramente tanto vedere qualche ragazzo che ho allenato diventare una colonna portante del Milan. Quindi questo è l'obiettivo principale, poi per me si vedrà in futuro. Grazie Christian, buone vacanze. Grazie a voi. Buone vacanze. Ciao. Christian Brocchi. Anzi, ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. Notizia clamorosa: Galliani sta volando verso Ibiza e Formentera, dove sono in vacanza gli obiettivi nuovi del Milan, che sono Benzema e Bale. E Galliani è solo, pare, o forse accompagnato da qualcuno, non si sa, e domani incontrerà i giocatori, che però peraltro sono all'oscuro di tutta la vicenda, quindi diciamo che è al 50%, cioè nel senso che se dicono di sì, ma sarà difficile, però per adesso non lo sanno, è clamoroso. non che non lo sanno, è che Gagliani va là. Forse neanche Gagliani lo sa. È clamoroso. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Invesco, per i tuoi risparmi investi con noi. Vi presenta Tutti convocati. Poi vi parliamo anche delle più tardi, nella prossima mezz'ora, dopo le tre vi parliamo delle prove di Assen, domani si corre il mondiale, vi parliamo di gara 7 che questa sera assegna uno scudetto che non si è mai visto nella storia del basket italiano, o a Reggio Emilia o a Sassari, ma adesso continuiamo con Giovanni Capuano qui con me e Pierluigi Pardo a discutere su temi anche sfiziosi, anche di mercato, perché tra poco vi racconto una cosa che mi ha molto colpito: nuove frontiere del mercato. Prima gli ascoltatori, però. Antonio, buongiorno. Allora, ciao Carlo, grazie della convocazione. Ascolta, io sono originario della città di Dellicarri. Sì. E quindi la famiglia di Dellicarri è una famiglia molto chiacchierata in città, per cui erano cose che prima o poi dovevano saltare. Ma non lo so, io non ho gli elementi per dirlo. Sì. Addirittura cugini pregiudicati. Sì, ma non è che stiamo a fare il casellario giudiziario di Dellicarri, porta pazienza, cioè, esatto. No, ma soprattutto alla radio, a parte che voglio dire il fatto di avere eventualmente nel caso dei parenti pregiudicati non vuol dire che uno sia colpevole, ma poi voglio dire, se è così chiacchierata la gente può andare, cioè se ha delle prove o comunque delle cose da dire può andare, no, nelle sedi preposte, non a Radio 24, ma non perché vogliamo tirarci fuori, perché sennò qua ognuno telefona e dice quello lì è mafioso, quell'altro è camorrista, cioè capisce, è un po' eccessivo. Comunque, per carità, andiamo avanti. Andiamo da Alessandro, la Spezia. No, ma non è, cioè no, vabbè, ma adesso non volevo. No, recuperiamolo, magari aveva altre cose da dire, anche sulla vicenda, però. Ma il ragionamento, insomma, dai. Vabbè, Alessandro. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Tifoso milanista, quindi sono in silenzio stampa come la mia squadra, perché è meglio non parlare, almeno finché non ci saranno le firme sul contratto anche di Bertolacci. Oggi Gagliani ha rotto il silenzio stampa, si è fatto fotografare, mentre firmava il rinnovo di contratto di De Jong, ufficiale rinnovo fino al 30 giugno 2018, quindi insomma qualcosa oggi è trapelato. Prego. Secondo me è una buona notizia, io non so come la pensi tu da milanista. Sì, buona notizia. No, io invece volevo un attimo sapere da voi sulla mia considerazione per quanto riguarda i miei nemici sportivi, i cuginastri dell'Inter, perché Mancini, grande allenatore, fa venire grandi giocatori, però ricordiamoci che nel mercato di gennaio ha fatto venire Santon, ha fatto venire Shaqiri, ha fatto venire Podolski, e di questi tre praticamente uno se n'è già andato, due sono sul piede di partenza. Sì, poi ha fatto venire anche Brozovic a gennaio. Venire Brozovic, discreto giocatore. Ora niente di trascendentale. Ora io dico, questi Murillo con Dobbiah non si discute, quindi io da milanista logicamente sono un po' ferito. Però questo sia Murillo e anche questo Gianelli in Bula, sinceramente io Gianelli in Bula seguo molto il calcio, ma è la prima volta che l'ho sentito, diciamo, in questa maniera qua. Quindi volevo sapere un attimo il vostro pensiero su questa mia considerazione, se poi alla fine, insomma, L'Inter sta facendo un eccellente mercato. L'Inter sta facendo un eccellente mercato, secondo me. Poi c'è da dire che Shaqiri resta comunque un buon giocatore, non si è inserito, ma secondo me resta uno buono. Santon ha fatto molto bene, ma verrà ceduto in cambio di soldi al Watford di Pozzo, che che non sta comprando per l'Udinese, ma sta comprando per la sua squadra inglese neopromossa, Santon, 8 più 3 se non ricordo male per Kuzmanovic. Sì, dovrebbe andare via con un pacchetto tra gli 11 e i 12 milioni con Kuzmanovic, sempre che accettino, perché poi il problema di tutti i club, non solo dell'Inter, è la difficoltà a vendere i giocatori. L'Inter con i nuovi acquisti, quando saranno ufficializzati, facciamo prima il calcolo in redazione, Pierre, è tra i 34 e i 35 giocatori in rosa. E noi sottolineiamo che da quest'anno scatta anche per la Serie A il blocco della rosa a 25, e quindi sarà obbligatorio vendere, cioè al di là delle questioni di bilancio che ovviamente sono preminenti, sarà obbligatorio vendere, perché poi oltre i 25 che tu metti nella rosa non possono giocare, ma anche in Serie A non è più soltanto una questione di Champions League o di Europa League, e quindi evidentemente se arriva un'offerta per Santon magari all'Inter dispiace, però viene presa in considerazione. No, guarda, a me piace molto Miranda, piace molto Kondogbia. Imbula, onestamente, dopo aver preso Kondogbia, è una mossa che capisco fino a un certo punto, e quindi mi convince meno. Però, insomma, è indiscutibile, anche alla luce di quello che si diceva, che l'Inter stia facendo un mercato da protagonista. Poi, come sempre, io avrei scommesso, per esempio, l'anno scorso su Vidic, che invece è andato malissimo, o comunque è andato male. Insomma, è chiaro che ci sono tutta una serie di verifiche che devono arrivare dal campo. Però mi sembra che ci sia movimento. Oggi ne parla Domenech sulla Gazzetta dello Sport, tra l'altro ribaltando le sicurezze di tutti, le certezze. Cioè lui dice che Kondogbia dovrà giocare davanti alla difesa e Imbula invece un po' più avanti, perché è un giocatore un po' più portato ad attaccare. Sì, sì, ma comunque insomma l'Inter sta spendendo molto e si sta muovendo molto. Il Milan ha fatto questo primo acquisto, ripeto, Bertolacci, il giocatore mi piace molto, è chiaro che 20 milioni è una valutazione importante, forse anche un po' alta. Però sicuramente insomma l'Inter è la grande sorpresa di questo mercato. Certo, è quella che sta facendo una grande sorpresa, è una grande sorpresa come quantità di operazioni, come attivismo, come risorse e anche come soldi spesi che sembra siano stati spesi bene, visti i giocatori portati a casa. Voglio farvi sentire una cosa, cioè ha raggiunto anche Mario Giunta da Sky, che ieri ha fatto il giorno delle buste. Sentite questa. Sono nuove frontiere del mercato, una cosa che mi incuriosisce molto. Eto'o che lascia Sampdoria e va all'Antalyaspor in Turchia, Miccoli va a Malta, Lucio va a giocare in India a Goa, Cignac in Messico al Tigres, Berghessi l'anno scorso accolto da una folla oceanica all'aeroporto, Cristoforo Colombo sponda Sampdoria, va pure in Messico all'Atlas, Sissoko in Cina, Gervinho è già andato alla Jazeera, Novaretti è andato dalla Lazio al Leon in Messico, dunque Messico, Cina, India, De Sceglie potrebbe andare in Svizzera con Young Boys, c'è chi torna a casa, Pizzarro dovrebbe tornare in Cile. Ciao Mario Giunta. Ciao, buon pomeriggio. Come leggi questa diaspora verso orizzonti diversi? Hai citato tutti i paesi che possono investire tanto e offrire tanti soldi di ingaggio a questi ragazzotti. Io aggiungerei anche Dumbia, che ha anche delle richieste dalla Cina ultimamente, che potrebbe raggiungere i vari colleghi che hai citato. Sono tutte società che vogliono essere protagoniste nel mercato internazionale, vogliono e hanno la possibilità di offrire, di riempire davvero di tanti tantissimi soldi tutti questi giocatori, anche Ronaldinho. Sì. Mario, tra un istante ti chiedo della giornata delle buste, ma dobbiamo fermarci ancora un attimo. Breaking news. Sempre più dei contorni drammatici questo attacco contro i turisti a Susa, o Susa, la terza città della Tunisia, un polo turistico fondamentale. Si è passati in pochi minuti da un bilancio di 7 a 27 persone uccise, un bilancio che sembra non terminare. È accaduto che un uomo armato di Kalashnikov ha fatto irruzione nella hall del Rio Imperial Mahaba a Port El Kantawi, vicino ad Hammamet, 10 chilometri dalla città. Sono stati sentiti colpi d'arma da fuoco sulla spiaggia davanti al resort. Il portavoce del Ministero degli Interni tunisino, Ali Larou, ha parlato pochi secondi fa di almeno 27 morti. Ci sarebbero molti stranieri, di diversi feriti tra i residenti dell'albergo, anche un altro albergo, ma non conosciamo il nome, è rimasto coinvolto. Dunque due gli hotel che sono rimasti coinvolti in questo attentato, sempre di più con un bilancio, dicevo, drammatico. I prossimi aggiornamenti nel giornale delle 15. Dunque torniamo, stiamo parlando di destinazioni inedite. Pierluigi, dove andresti tu? Turchia, Malta, India, Messico? No, dove andrei non lo so, insomma, in questo momento il pensiero per una questione molto più grande va veramente per quello che è successo in Tunisia, e, insomma, dopo il bardo mi sembra che sia il secondo attacco che in qualche modo finisce per rendere praticamente impossibile il turismo in quella zona, al di là di tutte le... poi c'è anche Parigi, diciamo, oggi... Assolutamente, di Lione. No, tornando al calcio, ma a me sembra che questo sia un grande salvagente per dei flop. No, Dumbia, ad esempio, è stato oggettivamente un flop, lo stesso Novaretti, che certamente è stato pagato meno, è stato un giocatore che nella Lazio ha trovato tanta fatica. Cioè, mi sembra che rispetto al passato ci sia la possibilità di concedersi qualche rischio in più con una certa tipologia di giocatori, perché se anche, e non è che ci volesse francamente la palla di vetro per capire che Dumbia a quella cifra lì era un azzardo a gennaio, insomma, dei dubbi c'erano, ce ne avevano gli stessi tifosi della Roma in quei giorni lì, anche perché era in Coppa d'Africa, però poi alla fine trovi magari modo di rivenderlo 6 mesi dopo a 12 milioni, a 10 milioni, e comunque, insomma, hai, salvi qualcosa, diciamo, ammortizzato il rischio. Ecco. Quindi questa mi sembra una novità veramente molto importante di un mercato che è diventato globale e che quindi concede in tanti casi una seconda chance per poter rischiare. Mario Giunta, mi racconti invece la giornata delle buste ieri, l'ultima storica giornata delle comproprietà, non esisteranno più, sei stato testimone dell'ultima giornata mondiale totale delle buste. E abbiamo portato a casa anche noi una busta, Ah sì? Abbiamo rubata dagli uffici della Lega, e quindi quello rimarrà un cimelio certo. Storico sì, del calciomercato. Poi è l'ultima giornata delle comproprietà, come sempre una giornata abbastanza convulsa, anche se è chiaro che essendo le ultime, insomma, molte squadre già piano piano avevano risolto tutti i loro accordi. La più importante, quella di Nainggolan, era stata decisa ad esempio il giorno prima. Però è sempre una giornata molto bella, molto divertente. Vi racconto un particolare, ad esempio le società hanno questa paura, questo segreto pulcinella, poi a non rivelare mai in realtà la cifra da mettere dentro le buste fino all'apertura, anche quando poi vengono consegnate, quando poi sono già negli uffici della Lega, dove poi non possono essere più modificate, quindi non la vogliono mai comunicare, soltanto poi all'apertura si danno sì è vero o no, o no non è vero, della conferma di quanto avevi detto. Ma ad esempio è carino osservare anche tutti i comportamenti. C'era l'agente di Caprari che fino alle ore 9, quindi a mezz'ora dall'apertura mezz'ora dopo l'apertura delle buste, non sapeva se Caprari continuava la sua avventura con il Pescara oppure doveva tornare alla Roma, quindi prepararsi a una nuova avventura con la Roma. È chiaro che poi Caprari sarebbe stato venduto successivamente, certo, qualora la Roma l'avesse riscattato. E lo stesso giocatore Caprari che continuava a messaggiarsi con Diego Tavano, che è il procuratore del ragazzo, dove gioco, per chiedere per chiedere informazioni dal luogo di vacanza, dove vado, che è successo, e purtroppo non filtrava nulla. E succede anche questo, succede anche che i giocatori, delle volte, i giocatori in comproprietà sono all'oscuro delle decisioni delle società. Un po' sì, forse mancheranno, le comproprietà. Sì, a me mancheranno. Un po' mancheranno, un po' è il classico appuntamento di giugno, però sì, sì. La federazione ha deciso così, anche perché eravamo solo noi in Italia ad aver mantenuto questa modalità. Sì, sì, sì. C'è da dire che da buoni italiani tolte le comproprietà perché consentivano anche qualche giochino, insomma, sui conti, le abbiamo sostituite con formule varie, esatto, di prestiti obbligati. Riacquisto, anche l'accordo sul riacquisto, in realtà, che è la nuova moda del mercato 2015, cioè io prendo un giocatore e poi mi metto d'accordo con te per un riacquisto a determinata cifra. Diciamo che è un po' la nuova frontiera della comproprietà, mi viene da definirla un po' così, ecco. Sì, tra l'altro è anche pericoloso, perché comunque scarica sempre sul futuro dei, certo, pagamenti, sì, delle cose. Io ho due domande velocissime. Siamo a 49. Gliele faccio? Vai. La prima è Berardi, questo benedetto diritto di ricompra, 16, 18 o 22? Perché ho letto di tutto. 18, da quello che ci risulta a noi è 18 il diritto di riacquisto per Berardi. Sassuolo l'ha riscattata a 10 e la Juventus si è preso a 18 il diritto di riacquisto. E la seconda è Benassi, l'ha perso l'Inter o l'ha lasciato andare? Io credo, vi ascoltavo prima sul mercato dell'Inter. L'Inter ha investito tanto, sta investendo tantissimo in questo mercato. Credo che questi 3,5 milioni di euro che si è ritrovato nella busta a firma Torino, credo che abbiano dato un po' di ossigeno anche alle casse dell'Inter e contribuiscano anche ai vari pagamenti che l'Inter dovrà affrontare in questo mercato di estivo. Un po' una sorta di famoso fondo cassa, sì, ecco, sì, per l'Inter, che è giustissimo, sono ragionamenti che le società affrontano. Certo, l'Inter deve portare a casa dei soldi in ogni caso. Mario, ti ringrazio. Se ci pensate, con 3,5 l'Inter può pagarsi quantomeno si è pagato quantomeno il prestito di Mbula, sì. Poi l'obbligo di riscatto si vedrà. Grazie Mario, buon lavoro. Grazie a voi, ciao, un abbraccio a tutti. Ciao, ci vediamo un attimo per il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Valentino Rossi partirà in pole position domani ad Assen, ultima volta di sabato sul circuito olandese. Rossi in pole davanti ad Aleix Espargaró, Marquez, Pedrosa, Pol Espargaró, Iannone, Kraslow, ottavo e Lorenzo, quindi Vignales e decimo Dovizioso. Poi parliamo anche di moto dopo il GR, ma volevo finire il discorso con Pierluigi Pardo e gli ascoltatori. Massimo Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao, dimmi. Volevo solamente sapere una cosa da parte vostra, perché io avrei bisogno da parte vostra di un po' più di onestà intellettuale. Io non riesco a capire una cosa: ma è possibile che tutte le volte che l'Inter compra qualche giocatore ci sia sempre una discussione? Perché quando non compra, non compra; quando compra un giocatore, spende molto; e poi quelli che prendono l'Inter improvvisamente... Ma guarda che stavamo parlando di Bertolacci, fino a prova contraria. Io guardo veramente, va bene, ha ragione. Come? Ci consegniamo. Ma che cosa ti devo dire? Io oggi stamattina ho fatto un tweet, ho detto: sono le 11:48, l'Inter oggi incredibilmente ancora non ha comprato nessuno. Scatenati. Mi sono arrivati messaggi di interisti che dicono: ma perché fai ironia sull'Inter? L'Inter sta facendo un grande mercato dal punto di vista quantitativo. L'Inter sta facendo un grande mercato, ha fatto un grande colpo che è con Dobbiá. Miranda mi piace la matti, Murillo è interessante, Imbula, come diceva adesso il dottor Giunta, arriva a una cifra molto, molto positiva negli prezzi. Perché sta facendo un mercato, ma questo quando è arrivato Mancini, sta facendo un mercato per il hic et nunc, cioè qui ed ora, certo, vuole vincere subito, certo, vuole tornare competitiva subito, e quindi sta prendendo giocatori fatti e finiti, anche al costo magari di perdere Bonazzoli, perdere Benassi e magari anche di caricarsi di qualche debito. Ma noi stiamo parlando bene del mercato dell'Inter, perché oggettivamente nell'ultima settimana è stato un mercato molto importante. Detto questo, poi c'è l'ascoltatore che ti dice che non siamo intellettualmente onesti, perché esatto, non lo so. Perché pensa che potremmo, diciamo, anche che aprire il discorso, potremmo anche aprire il tema sul fatto che non ci sono più italiani all'Inter se va via Santon. Dopo l'amico ci richiama e dice non vi va mai bene niente, e invece non lo apriamo. Vabbè, no, lasciamolo chiuso. Paolo, provincia di Rimini, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, buongiorno. Dica. Pardo. Ciao. Io volevo fare la seguente domanda: il mercato della Juventus. Secondo voi la Juve in attacco effettivamente ha terminato qua la sua campagna acquisti, perché mi sembra alquanto debole, oppure un rinforzo notevole del livello di, non so, Cavani o qualcun altro arriverà? E poi per il centrocampo è proprio necessario sacrificare Pogba o Vidal e i vari gioielli della Juve? A me non sembra così tanto debole la Juventus davanti. Poi, Piero? Per niente, la Juve ha fatto l'acquisto in prospettiva più interessante in assoluto fin qui di tutto il mercato, che è Dybala, anche più costoso ad oggi. E, no, forse più costoso no, forse l'ho superato con Dobbiati, però insomma, voglio dire, è un acquisto di grandissimo respiro anche per il futuro, di un giocatore che sembra già pronto. Davanti secondo me la Juve è alla finestra, cioè, se dovesse capitare l'occasione per il grande attaccante, però già così secondo me mi sta molto bene. Sul discorso del centrocampo credo siano due situazioni diverse. A me in questo momento mi sembra più probabile la partenza di Vidal, sì. perché comunque Vidal viene da una stagione così, però rimane un grandissimo giocatore. Ricordiamo l'intenzione di mercato nel 2010 della Juve, che lo comprò per 8 milioni di euro. Ha fatto 4 stagioni sensazionali, o 5, non mi ricordo. Pensavo comunque a Bardonecchi, è arrivato nell'estate della rivoluzione, quindi 4 anni ha fatto. 4 anni. E adesso, insomma, se ancora sui 30-35 milioni, secondo me può essere un ottimo tipo di affare economico per la Juve. Ma insomma, la Juve si autogenera. La Juve ha preso un passo che è davanti a tutte. Su questo non è che c'è da discutere. Quindi. Può concedersi la possibilità di ristrutturare la squadra, di ristrutturare e di avere così tante risorse interne, perché anche un'eventuale partenza di Pogba, se anche dovesse esserci, sarebbe talmente conveniente dal punto di vista economico che ti porta a poter fare quello che vuoi. Chiaro, quindi chiaro. Della Juve per me rimane intatto. Grazie Pierluigi, ci sentiamo domenica, direi. Domenica con il dottor Capuano. Ci fermiamo per il GR e torniamo subito. Secondo me questo è tutto da rifare. Tutti convocati. Se ti piace il Gastronaut e ti piace anche il panettone, non perderti la possibilità di vivere da vicino la diretta del mio programma domenica 28 giugno a mezzogiorno. Saremo proprio qui, nell'auditorium del gruppo 24 ore, durante la 2 giorni dedicata al panettone tutto l'anno, e ci divertiremo a festeggiare insieme l'arrivo dell'estate con il dolce simbolo di Milano. Prenota il tuo posto sul sito radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Che dire? Arrieccici. Tutti convocati. Vargas ancora bene a sinistra, il cross nel centro dell'area e il colpo di testa di Guerrero che sblocca il match, il vantaggio del Perù al 20° minuto di gioco è 1-0. Il lancio in profondità per Guerrero che è in posizione regolare, tutto solo davanti a Quinoes, 2-0, 1-2 micidiale del Perù. Prova di impostare la Bolivia con Beccarano che sbaglia tutto, regalo a Guerrero, solo davanti al portiere, 3-0, la tripletta di José Paulo Guerrero. Lisio entra in aria, il dribbling steso da Advíncula, calcio di rigore. Arriva il fischio dell'arbitro, Marcelo Martín Moreno, 3-1. E così questa notte in Coppa America, con il Perù che ha battuto 3-1 la Bolivia, raggiunge dunque il Cile in semifinale. Questa sera una bellissima partita, Argentina-Colombia. Giovanni Capuano è qui con me. Vi voglio ricordare due cose. La prima, settimana prossima, per tutta la settimana, da lunedì a venerdì e domenica prossima, cos'è, che giorno è, Giovanni? Il 4 luglio. Comunque domenica prossima, per tutta la settimana saremo in diretta da Expo Cibus Italia, veniteci a trovare lì. Non dopodomani, da lunedì alla domenica dopo, per essere chiari. Veniteci a trovare lì, Cibus Italia, e vi daremo anche una maglietta di Radio 24. Seconda cosa, dopo il nostro programma, quindi 15:30, non andrà in onda in via eccezionale Falco e Gabbiano con Enrico Ruggeri, perché ci sarà uno speciale condotto da Gigi Donelli sugli attentati terroristici che hanno sconvolto questa giornata. Adesso però voglio tornare alla griglia di partenza di Assen. Sarà un gran premio storico. Valentino Rossi in pole position, davanti ad Alexis Spargarò, Marquez, Pedrosa quarto, poi Spargarò quinto, quindi sesto Iannone prima delle Ducati, poi Crashlow, ottavo, solo ottavo Lorenzo, Vignales e decimo Dovizioso, che sta incontrando grandi problemi. Ciao Roberto Ungaro, direttore di Riders. Ciao, ciao, un saluto a tutti. Beh, Valentino l'aveva quasi promessa, eh? Il vecchio ha dato la zampata, ha reagito. È il mondo che si rovescia. Esatto, ha reagito e si sono invertiti i ruoli. Lorenzo problemi, non l'abbiamo ancora sentito perché sono appena finite la qualifica, quindi non sappiamo se ancora si lamenta per la gomma, perché Bridgestone ha portato una gomma con la spalla un po' più dura. Però dicevo, si sono invertiti i ruoli perché Vale davanti finalmente e Lorenzo ottavo, terza fila, la maledetta ottava posizione che era sempre appannaggio di Vale. Valentino, sì. Esatto, quindi se Vale vince partendo dalla ottava posizione, chissà cosa fa partendo davanti. Staremo a vedere, incrociamo le dita, però finalmente si sono invertiti i ruoli. Sì. Marquez si è risvegliato perché ha una moto che è più 2014 che 2015, sì. È ritornato ai vecchi pezzi, quindi riesce a controllarla, gioca, fa, disfa ed è tornato, aspettiamoci. Io l'avevo detto che il bambino non ha disimparato ad andare in moto, quest'anno sicuramente dalla zampata lo vedremo alla vittoria. Bisognava vedere quando era questo ritorno, vedremo se questa volta... Ultima volta che si corre il sabato. Esatto, sapete, esatto, gran premio storico. Per motivi religiosi si è sempre corso il sabato, ma ahimè il cassetto batte la fede dall'anno prossimo. Sono religiosi anche questi di motivi, è la religione del dio denaro, del dio botteghino sponsor. Attenzione. A proposito, ho sentito che voi da settimana prossima sarete l'Expo, sì. Attenzione perché siete sempre in fase digestiva, quindi riflessi un po' ritardati. Appannati, se ci viene a trovare ci fa un gran piacere. Degna di nota, vorrei invitato. Dire mm-hmm. anche grazie, molto volentieri. E Enea Bastianini che ha fatto la pole in Moto 3, un italiano davanti, fa sempre insomma ben sperare, quindi... Il ricambio delle giovani leve, speriamo. Bastianini è molto veloce, molto forte, poca esperienza, ma lo si vede che può far bene, cioè ha già fatto bene, si può vedere che può diventare uno vero che scriverà la storia, questo volevo dire. Sì. Insomma, gara interessante, la Ducati un po' indietro perché Iannone sesto, dove addirittura decimo, quarta fila, e quindi insomma è una bella gara secondo me, vedremo se si invertiranno anche i risultati. Problemi della Ducati da dove arrivano, Roby? Problemi della Ducati che è giovane, quello che ha fatto fino adesso è fuori dal comune. La Ducati sta mettendo a fuoco, sta mettendo a posto varie cose, non è stato un fuoco di paglia, ma è stato fuori dal comune quello che ha fatto davvero fino ad ora, adesso. E, la moto c'è, comunque lo ha dimostrato, devono mettersi in bolla e scegliere, stanno provando tanto, stanno lavorando tantissimo, soprattutto sull'elettronica, senza perdere d'occhio l'affidabilità, perché essendo così giovani non bisogna dimenticare che non ce l'hanno ancora e quindi vanno di conserva perché non si può rischiare molto, però la moto c'è, la grande disputa è per l'elettronica, per la centralina unica, Honda non vuole accettare questa cosa, Ducati, la guerra è tra Ducati e Honda, che sono le due massime espressioni, sì. Anche Yamaha c'è, però un prodotto più compiuto, regolare, bilanciato, l'abbiamo sempre detto, risparmia di più le gomme perché è una moto pulita, dalla guida semplice, lineare, ed è lì. Staremo a vedere perché proprio qui ad Assen ci sarà una riunione molto molto importante e decisiva per il proseguo del campionato. Senza dimenticarci le Michelin, avevamo già accennato l'anteriore, tanti problemi, devono risolvere e staremo a vedere perché si riparte da un foglio bianco. Sì, si riparte da un foglio bianco però con soprascritto 46 giallo almeno sulla linea di partenza. Ragazzi, il vecchio non bisogna tenerne conto perché il dottore è lì, lo ha dimostrato. Quindi mi sa che si è arrabbiato. Sì, bella la reazione comunque, sì, perché e lo aveva detto prima, sì, lì sì, gioco sì. Tutto per tutto, non ce n'è, voglio stare davanti, voglio... Quindi è proprio strategia, tavolino. L'aveva quasi promessa questa pole position. Grazie Roby, grazie Roberto. A Ungaro. Voi, un grazie saluto Roberto a tutti. Ungaro, direttore di Riders, che naturalmente aspettiamo come tutti voi la settimana prossima all'Expo. Un paio di ascoltatori, Giovanni. Facciamo un paio di ascoltatori. Alessandro Pescara, buongiorno. Buongiorno, salve. Volevo sapere una vostra opinione per quanto riguarda il mercato in uscita del Milan. Cioè, se voi fate caso, abbiamo circa 10 attaccanti, forse anche di più. Che fine fanno questi? No, arrivano... In realtà avete mezze punte. Il Milan ha mezze punte, perché di attaccanti veri, prima punta intendo, Pazzini è andato in scadenza e quindi non è più un problema del Milan. Destro, destro è stato rispedito alla Roma. Quindi, semmai ha il Milan una gran batteria di esterni di numeri 10. Cosa ne fa? Berlusconi vuole che si giochi con un trequartista e due punte, e quindi io immagino che un paio di quei giocatori, ad esempio mi viene in mente Onda, possa essere riciclato come numero 10. Tra l'altro, al momento mi risulta che il Milan non sta cercando un numero 10 e vuole prima tentare una soluzione interna, guardando tra i giocatori che ha già. Menez potrebbe fare la seconda punta, forse anche il Shaarawy. Però di sicuro vale lo stesso discorso fatto per l'Inter, cioè se arrivano offerte accettabili, molti di questi giocatori vanno. La prima punta invece rimane un mistero. Comunque oggi il Milan ha confermato informalmente che come priorità, una volta chiuso Bertolacci, che ripeto lunedì arriva a Milano per le visite mediche e la firma del contratto, cercherà una o due punte importanti di alto livello e poi eventualmente, e sarà il terzo step, lavorerà su un difensore. Marco Milano, buongiorno. Buongiorno, una riflessione oziosa che mi veniva in mente guidando. Sembra quasi di vedere un'analogia nei nuovi allenatori che hanno preso Milan e Armani Gitz. Intendo dire, entrambi ex Jugoslavia, diciamo, sì, comunque provenienza balcanica. Uno serbo, l'altro croato, Repes croato e Mialo il serbo, sì. Proprio così. Personalità forti, caratterialmente parlando, come d'altra parte caratteristiche dei balcanici, che vanno a sostituire due allenatori un po' palliducci e esangui, come erano sostanzialmente Inzaghi e Banchi, e hanno a che fare con proprietà, come dire, con cui ci sarà da divertirsi nel vedere i rapporti tra Mihajlovic e Berlusconi e tra Repes e Armani. Beh, insomma, comunque, Repes e Armani, Armani non è uno che va a consegnare il foglietto di formazione allenatore, mi sembra molto tranquillo, dire, no? Sì, però sono personalità che dovranno avere a che fare con contesti un po' ovattati e dove tutto sommato bisognerebbe muoversi con diplomazia, no? Perché alla fine queste sono, come dire, le realtà di queste società sportive. Quindi tutto sommato, quindi secondo me ci divertiremo un po' a vedere che cosa succederà. Ci divertiremo di sicuro. Secondo me il discorso, ripeto, vale più per Sinisa Mihajlovic. Poi l'hai sentito prima, detto io sono quello che prende la spada dal presidente, devo imparare che cos'è il Milan, poi la formazione la faccio io. Abbiamo sentito prima. Però io credo che Mihajlovic sia molto cambiato in 10 anni, cioè è comunque un allenatore che ha fatto un percorso professionale che l'ha anche maturato e probabilmente smussato dal punto di vista caratteriale, quindi quella diplomazia che certamente non era sua da calciatore e all'inizio della sua carriera da allenatore, io credo che in buona parte l'abbia metabolizzata, l'abbia imparata, tenendo conto poi che il Milan, o almeno una parte del Milan, Mihajlovic l'aveva scelto già nel mese di aprile, e quindi evidentemente è stata una scelta ponderata, anche se poi è arrivata attraverso altri percorsi, perché si è cercato Ancelotti, si sono mandati messaggi a Conte, si è pensato a Montella, a Emery, e poi alla fine è rimasto Mihajlovic. Però Mihajlovic era un profilo che il Milan aveva analizzato e scelto per tempo, quindi io non credo che sbaglino dal punto di vista caratteriale un allenatore. No, poi l'ha voluto Berlusconi, quindi cioè, l'ha scelto lui, no? Risulta? Non lo so, credo sicuramente piaceva moltissimo a Galliani. Mettiamola così. Allora, io adesso vorrei cambiare argomento salutando un professore come Alberto Bucci. Ciao Alberto, buongiorno. Ciao, salve. Ciao. Per raccontare una finale, mi sembra la voce corretta per raccontare uno scudetto che non c'è mai stato, cioè quello che andrà a Reggio Emilia o a Sassari. Questa serie di finale è stata incredibile. Poi qualcuno dice ma manca Milano, mancano le grandi firme, ma c'è tantissima pallacanestro. Sì, prima Milano non c'è per colpa sua, perché esatto, ha giocato la peggior pallacanestro di quest'anno, sia in Europa che in Coppa Italia che in Supercoppa, dove si è presentata è sempre stata una squadra senza leadership in campo, sempre incerta e sotto ogni stress era sempre fuori. Perciò Milano quest'anno è andata fuori per colpa sua. Una delle più grandi delusioni sportive degli ultimi 20 anni, ho detto. Sicuramente con la squadra che aveva era la più forte. Ci sono due squadre che hanno filosofie diverse. Sassi, che c'è una estrema libertà per questi giocatori di giocare una pallacanestro molto libera in attacco, chi prende la palla può tirare, e tutto questo produce una pallacanestro che è divertente per chi la guarda, sicuramente non sa gestire i vantaggi, perciò è capace di andare avanti di 15 come è successo in Coppa dei Campioni e poi ritornare sotto di 10 con un'estrema facilità, e viceversa andare sotto di 10, inventarsi tre canestri da tre impossibili e tornare in partita. Credo che è una filosofia che una squadra scelga. Quest'anno credo anche che l'abbia pagata, perché ha vinto in Italia, è andata male in Europa, perché non si può giocare così in Europa, chiaramente, perché in Europa ci sono almeno 8 squadre di un livello nettamente superiore. Sì, poi mentre parlavi mi veniva in mente che anche tu avevi vinto uno scudetto che non c'è mai stato. Mentre parlavi mi veniva in mente che anche tu hai vinto uno scudetto che non c'è, in un posto dove non è mai arrivato, cioè Livorno. Sì, sì, vabbè, ormai è tempo passato e bisogna prenderlo quello che è. Sì. L'altra squadra è Reggio Emilia, che stanno lavorando bene, hanno messo dentro molti giocatori italiani, e questo è un grande fatto importante, perché da Cervi a Della Valle a Cenciarini a Colomara, tutti i giocatori che sono effetti interessanti anche per la nazionale, e giocando con una squadra europea, perché Laurinovic e Kaukenas sono giocatori europei. Sì, sì, devo sì. dire che se stasera io non faccio tifo per nessuno e non voglio, però se c'è una piccola differenza Reggio Emilia, perché è una squadra che rappresenta l'Italia veramente in tutto. Sì. Cioè, i giocatori di Sassari italiani hanno giocato pochissimi minuti in 6 partite. Sì. Reggio Emilia sono stati la trave portante, una volta Polonara, una volta Cenciarini, una volta Della Valle, sono stati loro i giocatori portanti di questa squadra. Perciò come italiano c'è questo desiderio, ma niente va contro Sassari, ci mancherebbe altro. Questo è chiaro. Poi magari anche l'emilianità farà la sua parte. Sono, no? Di Bologna, sarebbe il terzo scudetto che vince una squadra emiliana dopo la Fortitudo, dopo la Virtus. Ci sarebbero tanti fattori importanti. Io credo che è una partita difficile da interpretare, sono state tutte difficili da interpretare. Facciamo così: se Reggio Emilia riuscirà a fare pensare Sassari un po' di più, può portare a casa questo scudetto. Sì. Se Reggio Emilia farà giocare Sassari con grande serenità, con grande tranquillità, e allora la vittoria non può andare a Reggio Emilia. Diamo un'occhiata anche alle percentuali da tre di Sassari, sì, bravo, che credo siano un indicatore. Beh, la stanchezza finale dopo le partite giocate con Milano, dopo le partite giocate con Reggio Emilia, adesso quando si comincia a giocare i primi due tempi, dal terzo in poi, la stanchezza da farà da padrone. Io dico che la chiave sarà tutta, secondo me, in Lavrinovic. Se ci sarà, la partita sarà molto aperta. Se non ci sarà, io credo che nella potenza delle due squadre una è forte molto di più di quell'altra, che in questo momento fisicamente, io parto Sassari. Sì, sì, sono due squadre. Ho speso troppo. Cenciarini ha giocato tutte le partite per 40, 42, 38 minuti. Anche se poi non è un bambino, perché ha 28-29 anni, le paga tutte queste. Certo. Alberto, un'ultima cosa, un discorso che facevo l'altro giorno, non mi ricordo se con Chiabotti, Pedrazzi o qualche collega, insomma, guardando a Cenciarini, Della Valle, Polonara, solo per quelli che giocano a Reggio Emilia, lo stesso Cervi, che a me sta piacendo molto in questa, anche in questa serie finale, e poi penso a quelli che giocano nell'NBA e poi penso ad altri giocatori italiani che stiamo Gentile Hackett e compagnia cantante. Beh, mi viene da dire che forse una nazionale con così tanto talento nell'era dei 10 milioni di stranieri era quasi inaspettata, è una grande sorpresa, o no? Oppure abbiamo sbagliato tutti? No, facciamo così, che quando i giocatori vanno fuori dall'Italia vuol dire che l'Italia ha dei buoni risultati. Pensiamo alle due nazionali straniere che hanno vinto di più negli ultimi anni. Prima è stato il periodo Jugoslavia e a seguire Serbia, che avevano tutti i giocatori che giocavano in Europa, nessuno in Serbia o in Jugoslavia. E la seconda nazionale, se ricordate bene, è l'Argentina, che non aveva giocatori che giocavano in Argentina, tutti in Spagna e in Europa. Più o meno anche la Francia. Più o meno anche la Francia. Adesso la Francia è 4. Noi abbiamo buoni giocatori, giocatori interessanti, dobbiamo lavorare di più, non sedersi su degli allori, ma questa nazionale per me è una delle tre favorite per vincere il titolo. Io spero che Pianeggiani lo affronti con spirito, sì, il mio pensiero, con uno spirito positivo. Non è che uno dice ho delle responsabilità. Quando hai una squadra del genere, quattro giocatori NBA, io ho parlato col papà di Gallinari e lui ci sarà con entusiasmo, gli altri ci saranno, Gentile, Hackett, Folonara, Cenzarini, Della Valle, Cervi e più altri giocatori che hanno fatto bene in Italia, io credo e sono convinto che questa nazionale può dare veramente delle grandi, certo, soddisfazioni. Si deve andare per il bersaglio grosso. Alberto Bucci, ti ringrazio come sempre. Le altre cose non contano. Sì, grazie Alberto, grazie, sempre grazie un piacere. In bocca al lupo per tutto e per la vostra trasmissione. Grazie Alberto Bucci, sempre un piacere. Sempre un piacere. Il professore e lo scudetto che non c'è, quello di Livorno, ti ricordi? Mi ricordo, contro tra l'altro lo scudetto di cui si sono scritti anche dei libri, che è una delle rare volte in cui il basket ha superato il calcio. A proposito, sì, di dietrologie, sì, sì, sì, di conti di Moviola con Carlo Sassi, Violi, che fece la Moviola, politiche, l'ultimo canestro di Forte. Perché insomma, dietro politiche, quel canestro c'è tantissima cosa. C'è un sacco di roba. Intanto, questa sera il basket torna sulla TV, 3. quella d'onore. E se l'è meritato normale. Tutto, non avremmo scommesso una lira quando è uscita questa finale un po' sbilenca rispetto a quelli che erano i pronostici di inizio stagione. Cioè, sparita Milano, tutti abbiamo detto sarà una finalina minore, e invece, guarda cosa è venuto fuori. Perché giocano a pallacanestro. Mauro, provincia di Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno gente e grazie per l'opportunità. Niente, ma se si poteva tornare sul discorso del biscotto famoso tra Portogallo e Svezia. Sì. Allora, c'è biscotto e biscotto. Nel senso, Atletico Madrid-Juventus era un biscotto dove le due squadre si sono incontrate in quel caso, a prescindere che ci fosse stata contemporaneità o meno, con quel pareggio passavano, ok? Sì. Mentre invece nella partita tra Portogallo e Svezia, come era successo, se non ricordo male, anche tra Danimarca e Svezia, la contemporaneità paradossalmente è stata è stato un fattore negativo, no? Sì. Perché ha permesso. Sì, perché dopo 20 minuti sapevano che l'Italia aveva vinto con l'Inghilterra. Era 3-0. Quindi è innegabile che ci siano dei sospetti, no? su quanto hanno fatto. No. Io vi sentivo ieri, secondo me il gol dell'1-1 non è un gol regalato, ve lo dico, tra l'altro è un gol che nasce da un rimpallo, perché altrimenti probabilmente quel pallone sarebbe finito fuori, però è evidente che quando tu, pur con tutta la volontà di pareggiare all'86esimo per sbaglio, rompi quell'equilibrio nell'arco di 3 minuti, lo riproponi, c'è motivo per fare due pensieri. Possiamo dire, no? Posso aggiungere una cosa sul Milan, sì, perché sono stato redarguito via Twitter. Avete ragione, tra le priorità c'è anche un altro centrocampista, cioè le chiavi del Milan non vanno in mano a Bertolacci. Come già detto all'inizio di questa campagna, il Milan sta pensando di partire dall'attacco, quindi la priorità, strano, è la prima punta, poi anche una seconda centrocampista e poi verso il finale di mercato un qualcosa centrale di inedito difensivo. Mai visto, Milan che parte costruire la squadra all'attacco, Ne parliamo domenica 17-19, non qui. Da Expo, non da Expo. Da qui. domenica l'altra da Expo. Giorgio De Luca, nostro autore, Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Adesso va in onda lo speciale sugli attentati di oggi. Gigi Donnelly al microfono, ciao a tutti. Arrivederci ragazzi, ciao!